E non c'è colle, triste, io la raggiungo, l'adduco al tempio, mia la proclamo, davanti a Dio. Eran padrini, due vecchi amici, Ammiro. Admiro nel segreto nostro Dio, tanto sfido egli si mostra, e il suo aspetto mentre intare. Un vestro magnatale, partendo per dolce castello paterno, sottienmi un dono promesso a mia madre. Risalgo di slitta e ratto ritorno, a mezzo l'addio, disceso dall'uscio del nobile amico, ravviso la tante rivanda, inseguo. La donna vacilla, balbetta, confessa, divando un biglietto ricopra di miro. Io salgo, è uscito, il servo mi lascia un istante, io corro al tiretto e trovo. E dice, ti attendo stasera alle 9. Come on! Diretta mia Parigi. Loris, ritorno presto. Subito, arrivederci. Son disceso all'albergo d'Inghilterra. Vado a parlar di voi, salvo il mio ciclo. Diego, mi cerco, bravo. Oh, no, sir. Oh, no, sir.

son io che li uccisi. Son pronta, che vi sembro? Deliziosa! Grazie, non mi sfido a raggiungermi! Siete così leggera! Non è che tra i chilometri di vantaggio! È la costa! La fortezza il fossato nella notte affogata. Mia madre, mia madre, madre mia. Morti per me. La donna, la madre del castillo che mi segue sempre ovunque, ma la breve a lei perché? Perché vedora da me ti scosti, Thank you.

这里是歌舞剧场，今天我们欣赏的是意大利作曲家乔尔达诺的三部歌剧《费朵拉》，由莫纳科费比沃、高比卡夫契利等演唱，意大利蒙特卡罗歌剧院合唱团乐团演出。感谢您的收听，欢迎继续关注北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。 Thank you. come se tu mentissi i mediti ancora che mi do certezza lui stesso lo divino ecco la prova leggi anima mia la sua scrittura Veneto armato deserta è la prima stanzetta vi ascolto un'onda divisa un'onda di baci Fuggì